Molto opportunamente la Chiesa, che oltre a essere madre e anche maestra, fa celebrare alle comunità che sono in festa, fa celebrare una santa messa di suffragio per i suoi membri che sono nella vita eterna, quelli che noi chiamiamo per i nostri morti. Solo che abbiamo bisogno di questa celebrazione per capire che rapporto la Chiesa ha con questi suoi figli. È un rapporto comunitario, come non avviene nelle altre messe, cioè avviene sì nel suo significato, ma non sempre nella comprensione delle persone. Perché quando fai un funerale, la messa è per quella persona lì. Quando la gente fa un'offerta per celebrare una messa per un defunto, il prete deve stare ben attento a non dimenticare il nome, perché sennò la gente poi va in sacrestia a reclamare: ma quella lì era la mia messa, l'ho pagata io, l'ho comandata io, ho provato a sentir dire, no? Ma vale ugualmente, anche se non ha detto il nome. Veramente escono di queste faccezie. Questa messa che noi celebriamo per tutti i defunti della comunità ci aiuta a comprendere che siamo una sola famiglia, la famiglia di Dio, per chi è vivo quaggiù e per chi è diversamente vivo nell'eternità. E allora io penso che in questa Santa Messa noi dobbiamo fare uno scambio, una comunione di beni, che anzitutto devono essere spirituali, prima che la comunione dei beni materiali. Noi affidiamo al Signore le anime di coloro che sono uscite da questa comunità e dobbiamo chiedere a loro che si ricordino di intercedere presso il trono di Dio per questa comunità. Quindi ringraziamo la Chiesa che ci dà questa opportunità. Dopo questo io vorrei proporvi qualche parola delle letture di oggi, perché non si accosta invano la parola di Dio per sentirla e basta, ma per nutrircene. E San Paolo a Timoteo, nella seconda lettera, capitolo secondo, versetto 16-26, ci dà un insegnamento quanto mai attuale. Comincia: carissimo, evita le chiacchiere vuote e perverse, perché spingono sempre più all'impietà, e la parola di costoro si propagherà come una cancrena. E poi porta l'esempio di due persone a noi ignote, ma ben note alla comunità, che addirittura diffondevano una falsa parola. Dice: la risurrezione? No, ma è già avvenuta, la risurrezione dai morti non è come pensate voi. E qui vediamo un primo nefasto frutto dello sparlare. Addirittura qui stravolge la verità della fede. Cari amici, io sento la necessità di riaffermare come noi dobbiamo essere fedeli alla fede della Chiesa, soprattutto in questo tempo in cui gira in una maniera impressionante sui social, sui telefonini, poi è una tempesta, è una grandinata di gente che ti manda la profezia della tal posto, quella tal persona che è ispirata e parla con Dio, l'altro parla con l'arcangelo Michele, e così è tutti, e sono normalmente profezie di dolori, profezie di sfaceli, profezie contro il Santo Padre, contro la Chiesa, guai a prendere la comunione sulle mani e poi sui guanti di lattice. È un abominio a Dio questo. Reverendo, mi telefona uno, lei che è esorcista e sa tante cose, ma è vero che è sacrilegio ricevere? Il tal sacerdote, e purtroppo mi fa anche il nome, ha detto piuttosto di astenersi dal far la comunione. Ah, com'è bravo questo sacerdote che divide la Chiesa dai suoi pastori, e lui è un nuovo profeta. Evita le chiacchiere vuote e perverse che si propagano come una cancrena. Ma più avanti Paolo dice che c'è anche un altro tipo di chiacchiera. Evita inoltre le discussioni sciocche e da ignoranti, sapendo che provocano litigi. E queste normalmente sono le chiacchiere nostre, quelle che si fanno in piazza, quelle che si fanno al cimitero, quello è il luogo speciale dove si pubblica un gazzettino orale. Si fanno sul luogo di lavoro, si fanno nelle amicizie, si fanno in parrocchia. Discussioni sciocche e da ignoranti, sapendo che provocano litigi. Il Santo Padre Francesco su questo è un maestro che è un martello, continua a ripetere, a fare una raccolta dei suoi testi, verrebbe fuori un libro. Eppure, un servo del Signore, continua la parola di Dio dataci da Paolo, non deve essere litigioso, ma mite, capace di insegnare, paziente, dolce nel rimproverare quelli che gli si mettono contro, pregando che Dio li converta, perché rientrino in se stessi, liberandosi dal laccio del diavolo che li tiene prigionieri. Pensate, c'è di mezzo addirittura Satana. No, ma sa, ma io sì, dico cose, ma senza fare male a nessuno. La gente si scusa. E quando poi succede che la gente calunnia, quando succede che gente anche consacrata manda in prigione delle persone per delle calunnie, veramente il cuore ti scoppia e ti fa dire: oh Signore, salva la tua Chiesa da questa peste, da questa grandinata. E noi, cari amici, cerchiamo di fare la nostra parte pregando, pregando, pregando e tacendo, tacendo, tacendo.